Sole 24 ore. Dopo il declassamento di Moody's, bacchettata dal Fondo Monetario, deludente la crescita dell'Italia. Napolitano, ora ci vuole rigore, disciplina, ma anche solidarietà. Forse vittima di un pirata della strada, la ragazza americana scomparsa domenica. Stamattina ha trovato il corpo in un canale. Ad un israeliano va il premio Nobel per la chimica per la scoperta dei quasi cristalli. Troppo pericoloso, stop all'arrivo dei tifosi azzurri a Belgrado per Serbia-Italia di venerdì. Buongiorno dalla redazione di GR24 e da Maria Piera Ceci. In primo piano la pagina economica dopo il declassamento da parte di Moody's, oggi la bacchettata anche dal Fondo Monetario Internazionale. In diretta con noi Vincenzo Miglietta. Sì, buongiorno. Il problema dell'Italia è la totale assenza di crescita. Il governo deve ora affrontarla con la stessa determinazione con cui risana i conti. E quanto si legge a proposito del nostro paese nel rapporto del Fondo Monetario Internazionale sull'economia europea? La situazione è critica in Italia, ma non è peggio di un anno fa, dice ancora l'FMI. Gli economisti del fondo entrano quindi nelle cause della bassa crescita del nostro paese. Negli ultimi 20 anni, spiegano, è stata deludente a causa di riforme inadatte e incomplete, tasse troppo complesse e scarsa produttività del lavoro. Di qui la necessità che si varino nuove misure che ricostruiscano la fiducia. A stretto giro è arrivata poco fa una nota della Commissione europea che tuttavia ricorda: il nostro giudizio non cambia, il Paese ha preso seri impegni di consolidamento fiscale che vanno nella giusta direzione e che le permettono di arrivare al pareggio di bilancio nel 2013. Della situazione economica ha parlato quindi anche il Presidente della Repubblica. La crisi che investe l'Eurozona, dice Napolitano, richiede rigore e disciplina nel governo delle economie europee, ma richiede anche solidarietà, coesione, attenta e coordinata governance di tutta la comunità internazionale. Infine il governo continua nei lavori per la messa a punta del decreto sviluppo che potrebbe essere varato la prossima settimana. E da Roma è tutto. Grazie a Vincenzo Miglietta. E oggi è anche il giorno del nuovo sciopero generale in Grecia. In diretta con noi, qui accanto a noi, Vittorio D'Aroldo. Buongiorno Vittorio. Buongiorno a voi. Sì, oggi è la prova di forza, la maggiore prova di forza del sindacato guidato da Elias Iliapoulos, il segretario generale della ADD, che rappresenta circa 750.000 dipendenti pubblici greci. Oggi è praticamente la prima volta che non solo verranno chiuse naturalmente scuole, ospedali, ma soprattutto gli aeroporti. Per la prima volta verranno bloccati, i controllori di volo bloccheranno gli aeroporti che finora erano stati bloccati solo per qualche ora per evitare che appunto cadesse anche il turismo, che è la principale forza del paese. È un momento molto duro, è una corsa contro il tempo, perché la Grecia tenta di mettere in pratica le riforme strutturali e nello stesso tempo ridurre la massa di impiegati pubblici. È previsto appunto di ridurre e mettere in mobilità entro fine anno 30.000 dipendenti pubblici, ed è proprio su questo che c'è lo scontro maggiore, perché se non passano queste riforme non arrivano gli 8 miliardi di euro che sono fondamentali per pagare pensioni e salari. Stipendi, certo. Grazie a Vittorio D'Aroldo. Chiudiamo la pagina economica con un punto sulle borse. Deborah Rosciani. Il giorno dopo il downgrade di Moody's sull'Italia, decisione peraltro attesa perché ne parlavamo già da diverse settimane, più sorprese, più clamore aveva fatto la riduzione di rating da parte di Standard & Poor's sul debito italiano. E belle borse oggi sono tutte in netto recupero dopo i cali di ieri, soprattutto Milano, che era partita un po' più in sordina, stamattina adesso segna un più 2,18% sul FTSE MIB, Parigi più 3,28%, Francoforte più 3,67%, Londra guadagna il 2,31%, quindi giornata di riscossa dopo aver bruciato ieri oltre 160 miliardi di capitalizzazione nel vecchio continente. Stanno andando molto bene a Piazza Affari i titoli del settore industriale, Tots e Fiat Industrial in testa con un rialzo di oltre il 5% insieme a Pirelli, Tenaris più 4,58%, Fiat SPA più 3,93%. Anche l'euro in buon recupero sul dollaro a 1,33,51, nonostante le indicazioni arrivate questa mattina da parte del Fondo Monetario Internazionale, che peraltro sta continuando a dire che le banche europee dovrebbero proseguire sulla strada della ricapitalizzazione. Noi oggi a Salvadanaio abbiamo parlato del caso Dexia, per quello che riguarda questa banca franco-belga in forte difficoltà, ieri tracollata di oltre il 20%, oggi recupera qualcosa come il 4% sulla scia delle rassicurazioni da parte dei ministri delle finanze belga e francese che dicono che probabilmente probabilmente appunto interverranno per sostenere la banca. Per ora è tutto. Grazie, grazie a Deborah Rosciani. Il Nobel per la chimica è andato per la seconda volta in pochi anni ad uno scienziato dell'Istituto Technion di Haifa in Israele. Si chiama Daniel Schichtman, ha 70 anni. Laura Bettini ha chiesto chi e che cosa ha scoperto a Luigi Fabrizi, docente di chimica all'Università di Pavia. Nell'82, quindi già sono un bel po' di anni, ha scoperto i cosiddetti quasi cristalli, che non hanno la struttura classica dei cristalli. Cioè, un cristallo è la ripetizione di una cella elementare che è sempre quella riprodotta all'infinito. Invece lui ha trovato dei cristalli che non erano ripetitivi. Questi cristalli erano ottenuti in laboratorio. La cosa interessante è che pochi anni fa, 2 o 3 anni fa, un ricercatore italiano, tal certo Luca Bindi, un cristallografo che lavora a Firenze al Museo Scienze Naturali, ha trovato dei quasi cristalli naturali, e questo ha cambiato un po' le cose, per questo mi hanno dato anche il premio Nobel. Dice: c'è un'applicazione che migliora la qualità della nostra vita, una scoperta di un farmaco, di un nuovo materiale? No, questo no, questo è semplicemente una grande scoperta dell'interpretazione della natura. La Corte Costituzionale ha dichiarato ammissibile il conflitto di attribuzioni sollevato dal governo contro il Tribunale di Milano, che sta giudicando il premier Berlusconi per frode fiscale nel processo Mediaset. Si tratta di un preliminare via libera, la decisione nel merito ci sarà solo fra qualche mese. Ed ora il disegno di legge sulle intercettazioni, in diretta da Roma, Elisabetta Fiorito. Si è iniziata qui alla Camera la seduta sull'esame del disegno di legge sulle intercettazioni. È in corso la discussione sulle pregiudiziali di costituzionalità presentate dall'Italia dei Valori e dal Partito Democratico. Dopo quello che sembrava un punto di mediazione ieri sull'udienza filtro tra maggioranza e DC, il PDL passa all'attacco, e nel nuovo provvedimento si prevedono sanzioni per i giornali, ma anche il carcere per i giornalisti che pubblicano le intercettazioni. Lo dice Maurizio Paniz proprio a Radio 24, che parla di sanzione penale da 15 giorni ad un anno, poi si vedrà se sono possibili riti alternativi, pene pecuniarie o multe. E così rischia di saltare anche l'accordo con l'UDC, che ieri aveva ritirato le sue pregiudiziali di costituzionalità. Se si fa una legge seria per evitare gli abusi ci siamo, dice Casini, se si vuole censurare la stampa e vendicarsi contro i PM non saremo complici. Per il segretario PD Pierluigi Bersani è scandaloso che mentre 4 ragazze muoiono sotto le macerie, Moody's declassa l'Italia, noi siamo qui a parlare di intercettazioni, Berlusconi pensa solo agli affari suoi. E per il momento qui da Montecitorio è tutto, voi studio. Grazie ad Elisabetta Fiorito. E alla protesta si unisce anche Wikipedia, il 7° sito più visitato al mondo, che ha bloccato le pagine italiane. Il progetto rischia di essere compromesso dal comma 29 del DDL intercettazioni, che prevede l'obbligo entro 48 ore dalla richiesta di una rettifica su qualsiasi contenuto che il richiedente giudichi lesivo. Ma la valutazione della lesività non viene rimessa ad un giudice, ma solo all'opinione di chi si sente danneggiato. Enrico Pagliarini ha chiesto un commento a Luca Menini, socio di Wikimedia Italia. È una scelta estrema. Abbiamo valutato di farla proprio perché riteniamo che la libertà di espressione sia in pericolo. Riteniamo che sia eccessivo obbligare tutti, senza una verifica di parte terza, a pubblicare delle rettifiche. Questo per Wikipedia sarebbe la morte, e per questo abbiamo deciso di fare questo gesto estremo. Oltre ad essere, diciamo, sbagliato nei principi, secondo voi, ma secondo molti, è anche tecnicamente difficile realizzare quello che verrebbe previsto da questo articolo? Esatto, c'è questo doppio aspetto, uno della non giustizia di questo e l'altro da un punto di vista tecnico, che vuol dire che anche un'enciclopedia come Wikipedia verrebbe stravolta, perché non potresti più fare la sintesi tra opinioni diverse tentando di avere una visione neutrale, ma saresti costretto a esporre le singole posizioni. Poi mi sembra di capire non ci sarebbe nemmeno il tempo utile. Wikipedia si basa su volontari. Non è che c'è una redazione o c'è qualcuno che gestisce o amministra la gestione delle persone. Le persone mettono a disposizione il loro tempo gratuitamente, quindi alcune cose possono essere corrette immediatamente, altre cose, proprio per la mancanza di volontari, non è possibile correggere immediatamente. Quindi il termine di 48 ore potrebbe in alcuni casi essere a rischio. Va distrutta la lista Falciani con i nomi di 7.000 evasori fiscali italiani perché acquisita illecitamente. A deciderlo, secondo quanto riportato dal Corriere della Sera, è stato il giudice di Pinerolo Gianni Reinaud, che ha archiviato il caso di un presunto evasore sulla scorta del fatto che la lista Falciani è inutilizzabile per via della legge del 2006 che intendeva appunto evitare l'utilizzo di atti acquisiti illecitamente. La lista va quindi distrutta con immaginabili conseguenze sui procedimenti in corso. Valentina Furlanetto ha sentito il giudice Reinaud, che non ha voluto parlare del caso specifico ma della possibilità che un'archiviazione faccia o meno giurisprudenza per i prossimi casi. Dal punto di vista interpretativo forse sì, è una vicenda abbastanza particolare perché si tratta dell'applicazione di una norma che è stata introdotta nel 2006 pensando in realtà ad altre questioni. C'era il problema della Pirelli, delle intercettazioni illegali. E però questa norma si attaglia anche ai documenti, a qualsiasi tipo di documento illecitamente acquisito. Non può essere acquisito, ma non può neanche essere una notizia dalla quale parte una notizia di reato, quindi dalla quale partono investigazioni in generale. Questo è opinabile se possano o meno essere utilizzati come notizia criminis. Questa archiviazione potrebbe portare a un'archiviazione per 7.000 presunti evasori italiani, potrebbe andare così? Potrebbe andare così se si condivide questa interpretazione, la conclusione è evidentemente questa. Ed ora il nostro approfondimento quotidiano sull'evasione fiscale. Il paese sommerso. Il paese sommerso. Storie di ordinaria evasione fiscale. Un'evasione fiscale da oltre 800.000 euro. Tanto è stato scoperto dalla Guardia di Finanza di Lecce che qualche tempo fa ha eseguito una verifica fiscale nei confronti di un geometra del Basso Salento. Dal 2005 al 2009 è rimasto sconosciuto al fisco, dimenticando di presentare le dichiarazioni dei redditi. Un caso di evasione totale che non è certamente la norma fra gli 80.000 geometri che operano in Italia. Ma secondo l'Agenzia delle Entrate, il compenso medio dei geometri in Italia, 33.000 euro lordi l'anno, è considerato di molto inferiore alla realtà. E contano anche le differenze territoriali, come spiega Ciro Laudato dell'Agenzia delle Entrate. È possibile individuare il reddito medio dei soggetti del nord che si attesta intorno ai 28.600 euro rispetto a quelli del centro un po' più bassi, i quali si attestano a 23.400 euro rispetto poi infine a quelli del sud e delle isole che si aggirano intorno ai 14.000 euro. Valentina Furlanetto, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Dopo il declassamento di Moody's bacchettata dal Fondo Monetario, deludente la crescita dell'Italia. Napolitano, ora ci vuole rigore e disciplina, ma anche solidarietà. Ad un israeliano va il premio Nobel per la chimica per la scoperta dei quasi cristalli. E ripartiamo dalla cronaca. È stato trovato questa mattina il corpo di una giovane donna in un canale lungo una strada del Valdarno Aretino. Tutto lascia supporre che si tratti proprio di Allison Owens, 23 anni, la guida turistica statunitense scomparsa domenica pomeriggio dalla casa di alcuni amici a San Giovanni Valdarno. Potrebbe essere stata la vittima di un pirata della strada, il comandante dei carabinieri di Arezzo, Antonio Frassinetto. Per adesso è l'elemento che conclude la ricerca che abbiamo iniziato già dal lunedì, quindi subito dopo la denuncia che c'era stata in un certo senso presentata da un connazionale che non aveva visto questa ragazza rientrare. Quindi stiamo ricostruendo la vicenda perché, come avete visto la zona dove avete fatto le riprese, la zona di rinvenimento del cadavere, ovviamente tutto fa presagire molto più ad un incidente stradale che non a fatti di cronaca nera in senso stretto. È stata allestita a Barletta la camera ardente per le persone morte nel crollo della palazzina lunedì. Continuano intanto gli accertamenti per far luce sulle cause dell'accaduto. Al microfono di Katia Caramelli, Pietro Laboragine, segretario provinciale CGL. Quello è un opificio che io conoscevo, che ho visto, ma non sapevo se era un opificio regolare o meno, perché da accertamenti di qualcuno sembra che lì una delle ragazze morte non risulta assunta, però non sappiamo adesso gli altri. Ci sono tante altre realtà un po' fatiscenti o comunque sconosciute all'INPS. Gli opifici ce ne sono tantissimi, scantinati o opifici diciamo a carattere familiare, dove lì vivevano anche delle famiglie, degli anziani, e poi strutturate in opifici. Dei luoghi non adatti, non sicuri. Da quegli accertamenti che abbiamo fatto fare noi nel passato, di denunce che abbiamo fatto, di sicurezza era zero, e ce ne sono tantissime, nel centro specialmente di Barletta, dove ci sono strade e stradine, dove ci sono ubicati questi, diciamo, questi opifici senza sicurezza e quant'altro. E questo soprattutto forse anche per il momento di crisi, perché hanno chiuso dei grossi laboratori e sono nate queste... In buona sostanza sì, in buona sostanza sì, perché questo sta accadendo a Barletta. Il processo Meredith, parlare di errore giudiziario di fronte ad una sentenza di secondo grado che modifica il verdetto del tribunale, significa ignorare il funzionamento del nostro sistema giudiziario. A parlare così il vicepresidente del CSM Michele Vietti, che dopo che ieri Angelino Alfano aveva parlato di giudici che non pagano per i loro errori. Intanto, dopo l'assoluzione, Amanda Knox e Raffaele Sollecito pensano alla richiesta di risarcimento per errore giudiziario. TV e case di produzione sarebbero già pronte a versare milioni di dollari alla giovane americana per raccontarne la storia. C'è chi parla di 20 milioni, chi di 30 milioni di dollari. Tanto potrebbe fruttare ad Amanda Knox la celebrità ottenuta a suo malgrado dal processo per l'omicidio di Meredith Kercher. Dopo essere stata assolta insieme a Raffaele Sollecito dalla Corte d'Assise d'Appello di Perugia, Knox e famiglia hanno fatto rientro negli Stati Uniti, ma il circo mediatico che per 4 anni ha accompagnato la vicenda giudiziaria sarebbe solo all'inizio. La storia di Amanda Knox si coprirà di dollari. La prima intervista molto probabilmente sarà pagata tra gli 1 e i 5 milioni di dollari. Così riporta Fox News, secondo cui sarebbero molte le case di produzione già pronte a comprare i diritti per libri e film sulla storia di Amanda, da carnefice a vittima di un errore giudiziario. Stessa stima viene proposta dal quotidiano francese Le Figaro, e senza tenere in conto della richiesta di risarcimento che la famiglia della giovane di Seattle chiederà allo Stato italiano. Anche Raffaele Sollecito, dopo essere rientrato nella sua casa in Puglia, sta pensando ad una richiesta di risarcimento. L'assoluzione con formula piena trasforma la detenzione di Knox e Sollecito in una detenzione ingiusta e abnorme, e come tale da risarcire con milioni di euro, dice il Codacons, che teme per il peso che il risarcimento avrebbe sui contribuenti, e per questo ha deciso di rivolgersi alla Corte dei Conti affinché il prezzo degli errori giudiziari non venga fatto pagare ai cittadini. Barbara D'Amico, Radio 24, Il Sole 24 Ore. E ora ci colleghiamo con Alessandra Schepisi, che si trova alla LUIS. Poco fa le parole della presidente di Confindustria, Emma Marcegaglia. Alessandra. Sì, buongiorno. Basta demagogie, basta divisioni, occorre uno sforzo comune per salvare l'Italia e portarla fuori dalla crisi. La presidente di Confindustria, Emma Marcegaglia, che ha parlato qui ad un convegno della LUIS, lancia un appello affinché si possa affrontare serenamente la situazione complessa che sta vivendo l'Europa, in particolare il nostro paese, ma la leader degli industriali rinnova anche la sua preoccupazione. Il downgrade di oggi di 2 livelli evidenzia che la solvibilità del debito pubblico c'è, ma che c'è bisogno di politiche economiche più certe. Il giudizio di Moody's, dice Marcegaglia, è un giudizio sulla politica del nostro paese e renderà probabilmente più difficile l'accesso al credito sui mercati internazionali. C'è un problema di bassa crescita e di equilibrio di conti pubblici da portare avanti, aggiunto Marcegaglia, di come recuperare credibilità sui mercati finanziari, ma il nostro sistema imprenditoriale e produttivo è comunque migliore di quello della Spagna, di cui la ricetta di Confindustria è una politica seria di liberalizzazioni, privatizzazioni, dismissioni del patrimonio immobiliare, più investimenti in infrastrutture e rinnovabili. Da Roma è tutto. Grazie ad Alessandra Schepisi. La crisi economica che coinvolge anche gli Stati Uniti mette in difficoltà i bilanci della difesa NATO. Gli Stati Uniti stanno affrontando tagli drammatici alla difesa, con implicazioni reali per le capacità della NATO. Leon Panetta, segretario americano alla difesa, parla a nuora perché suocera intenda, e se qualcuno non avesse capito, Panetta chiarisce. La crescente pressione sui bilanci della difesa, che sono già diminuiti in Europa, non può essere una scusa per non assumerci le nostre responsabilità di sicurezza.

di andata un anno fa a Marassi, gli ultraserbi costrinsero l'arbitro a sospendere il match per gli incidenti, 17 arresti e 16 feriti, che provocarono pesanti sanzioni alla Federcalcio serba. Ricordate Ivan Bogdanov, l'uomo nero, il leader della frangia più dura del tifo nazionalista, che in maglia per San Montagna Neri si arrampica sulla rete armato di tronchesino? Ivan verrà poi arrestato e si scoprirà che è anche un fan di Arkan, fondatore delle Tigri, responsabile di innumerevoli massacri durante la guerra nei Balcani. Un uomo molto pericoloso, come quasi tutti questi ultra, spesso ex paramilitari nazionalisti e soggetti poco raccomandabili. Dario Ceccarelli, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Prossimo GR 24 alle 14. GR 24, Il Sole 24 Ore. Direttore Fabio Tamburini.